Mix 24 di Giovanni Minoli. La conferenza di Vienna, voluta fortemente da Italia e Stati Uniti, ha riconosciuto la legittimità dell'operatività del governo Sarraj. Alla comunità internazionale domandiamo di aiutarci, non chiediamo un intervento diretto, bensì un sostegno per addestrare ed equipaggiare le nostre forze. La comunità internazionale sosterrà la presidenza del Consiglio libica nella sua richiesta di esenzione dall'embargo sulle armi imposto dall'ONU, una necessità per combattere l'ISIL e altri gruppi terroristici. Io sottolineo molto il valore politico dell'intesa raggiunta e naturalmente questo potrebbe anche consentire, un obiettivo a cui noi siamo molto affezionati, riaprire le nostre rappresentanze diplomatiche a Tripoli. Dunque, la Libia, malgrado gli sforzi, per ora è ancora in piena anarchia, si tenta di costruire un governo unitario auspicato dall'ONU, favorito dall'Italia, ma come la cronaca ci racconta tutti i giorni, la cosa non è semplice. E perché non è semplice? Ecco, per capirlo, per capire bene le ragioni dell'attuale caos libico, bisogna ripartire dal 2011 e chiedersi perché Gheddafi, dopo 42 anni di dominio assoluto di un paese sostanzialmente ingovernabile, improvvisamente è caduto. Che cosa ha spinto l'Europa e gli Stati Uniti a fare la guerra al colonnello? E perché Hillary Clinton e Obama hanno appoggiato il presidente Sarkozy e la sua azione militare? E soprattutto, che cosa voleva Sarkozy? Che ruolo ha avuto l'Italia in un conflitto che Berlusconi non voleva assolutamente? Per capire anche la situazione di oggi, proviamo a rispondere a questi interrogativi con un'inchiesta che Mario Secchi ha condotto attraverso l'analisi delle mail di Hillary Clinton, le mail di cui si è parlato moltissimo, e con la testimonianza esclusiva dell'allora ministro degli esteri italiano Franco Frattini, una storia che è piena di colpi di scena e di segreti. E allora partiamo dalla prima mail selezionata da Mario, che viene dall'intelligence italiana, che sono i più informati sul territorio, e arriva sul tavolo di Hillary Clinton il 21 febbraio del 2011. Stiamo avendo buone informazioni dalla Libia. Le fonti vengono dal clan regnante, da alti livelli militari, diplomatici, spie. Soprattutto dall'Italia. Ci sono state delle defezioni nell'esercito a Bengasi, ma è possibile che presto il governo non controlli più Bengasi. Ci sono tensioni tra i due figli più grandi di Gheddafi. La situazione è imprevedibile e pericolosa. Tutti gli americani devono lasciare la Libia. La mail dell'intelligence italiana a Hillary Clinton prosegue. Ci sono rumors su una fuga di Gheddafi in Venezuela. È amico di Chavez, ma non è vero. Ecco, e siamo nel febbraio del 2011, l'intelligence italiana, appunto, che è la più informata sul territorio, è al corrente della situazione sempre più difficile che c'è in Libia e ha individuato le fratture nel clan Gheddafi, la lotta fra i due figli, per esempio. Ma c'è anche una previsione di quello che accade oggi sulle nostre coste, cioè gli sbarchi. Previsione sempre dell'intelligence italiana in una mail a Hillary Clinton del 23 febbraio del 2011. Il governo italiano sta seguendo da vicino la situazione in Libia. Il controspionaggio italiano stima che oltre 500.000 di libici cercheranno di raggiungere Malta e il sud Europa se la situazione continuerà a peggiorare. E all'Italia è chiaro il pericolo di un deragliamento della guerra, ma nel frattempo la Clinton che cosa fa? Ecco, come ricorda Frattini il rapporto con la Clinton nell'intervista di Mario? Estremamente buoni, una serie di contatti molto frequenti, avevamo avuto occasione di incontrarci in vari eventi internazionali, ma anche di riflettere insieme su molte cose. Probabilmente c'era una simpatia personale reciproca che era emersa sul campo, anche perché Il mio approccio era un approccio collaborativo, ma al tempo stesso la Hillary Clinton si rivolgeva a me anche per chiedermi delle valutazioni che io non facevo mai mancare, davo sempre in modo ovviamente molto attento. C'era un rapporto di fiducia stretto anche perché lei mi chiedeva osservazioni e riflessioni personali, non quello che pensava il governo italiano, come io vedevo quello che si doveva fare con le tribù berbere del deserto, con l'inclusione dei Tuareg o meno, così via. Dunque i rapporti tra Frattini e la Clinton, l'abbiamo sentito, sono stretti. Però Hillary Clinton è pressata dai francesi. Gheddafi in questo momento è ancora in grado di reagire, ma i francesi vogliono assolutamente la guerra. Il 13 marzo arriva sulla mail di Hillary Clinton un report confidenziale dell'intelligence italiana. Sentiamo l'estratto di questo report. Tra i leader europei, Berlusconi è quello più vicino a Gheddafi e sta dicendo che Gheddafi potrebbe vincere. La posizione di Sarkozy è isolata e guidata da considerazioni di politica interna. Ecco, quindi siamo a metà marzo. L'Europa è divisa, Sarkozy preme per l'intervento, ma Berlusconi frena. Poi, il 2 aprile dell'11, ancora una mail dell'intelligence italiana arriva a Clinton. Fonti vicine a Gheddafi dicono che Gheddafi ha 143 tonnellate d'oro, altrettante in argento. Alla fine di marzo Gheddafi ha spostato queste riserve dalla banca centrale di Tripoli in una località verso il confine tra il Chad e il Niger. Continua la mail dell'intelligence italiana alla Clinton. Questo oro fu accumulato da Gheddafi per creare una moneta panafricana che avrebbe sostituito il franco francese nelle nazioni francofone. È un fatto davvero incredibile. Gheddafi, così dice la mail, voleva fare una moneta per il mondo arabo. Ma era vero? E l'Italia lo sapeva. Sentiamo ancora cosa ha detto Frattini a Secchi. Circolò l'idea che Gheddafi avesse nascosto un enorme patrimonio di tonnellate e tonnellate di oro. E questo non era, secondo me, una notizia diretta a facilitare la missione, ma una notizia diretta a dare al contrario il segnale che Gheddafi aveva ancora una disponibilità molto forte. Quindi fu creduta per vera perché lì evidentemente c'era una strategia che dipendeva direttamente da Saif al-Islam di counterintelligence, che non si faceva dando elementi sbagliati, ma facendo credere cose verosimili, per ragioni. C'era loro? Certamente, di far immaginare che una fonte super segreta e super protetta dicesse una cosa straordinariamente segreta ma vera, e invece si pilotava quella fonte per far dare una notizia che in realtà vera non era. Dunque, la guerra in Libia, si sono mischiate informazioni vere, informazioni false, verosimili, ma devianti. Ecco, ma Mario, alla fine questo oro c'era? Sì, l'oro c'era e c'è tuttora. C'è tuttora? E dov'è adesso? È chiuso in alcuni forzieri, ovviamente, banca centrale e così via. Addirittura a Tobruk non hanno l'altro governo, non quello di Tripoli e così via, non hanno la combinazione per prendere le monete d'oro, per esempio. Si ipotizzava addirittura di pagare stipendi oggi con quelle monete che hanno l'effigie di Gheddafi. Ma chi le controlla? Chi controlla questo oro? La banca centrale, in teoria. La banca centrale, anche se è stato spostato, è stato riportato? Sì. Così. Intanto io ricordo 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi volesse intervenire sul tema della Libia, di Gheddafi, della sua storia. Ma intanto andiamo avanti con la storia. E chi premeva in più di tutti per la guerra? Il Qatar, e c'è un ruolo fondamentale di Al Jazeera che vedremo. E allora sentiamo il ruolo di Al Jazeera nelle parole di Frattini. Al Jazeera ebbe un ruolo straordinariamente importante, quindi il Qatar, nel accentuare davanti al mondo queste stragi. Quando noi vedemmo l'ospedale pediatrico di Misurata raso al suolo con le culle piene di sangue, è chiaro che quelle immagini fecero immediatamente scattare un'azione internazionale alle Nazioni Unite e mai come in quel caso, subito, compresi i membri con potere di veto, dettero il via a una prima risoluzione per le sanzioni, a una seconda risoluzione per il congelamento dei beni e a una terza risoluzione, articolo 7, uso della forza. Ecco, sì, il ruolo naturalmente di Al Jazeera è stato enorme, ma che cos'altro spingeva i francesi all'intervento? Sentiamo ancora. Se non era l'oro, come citato nelle email della Clinton, che cosa avrebbe mosso allora l'interesse dei francesi? Secondo me i francesi dovevano riscattare l'immagine di essere stati gli amici di Ben Ali e di aver accettato gli inviti anche in vacanza che fecero dimettere la ministra Lagarde, che era ministro degli esteri, quando si scoprì che Ben Ali le aveva mandato un aeroplano per andare in vacanza. E quindi questa sintonia con uno degli autori di quelle, diciamo, repressioni furibonde che era caduto in pochi giorni, i francesi sul fronte libico pensarono che quello forse era un motivo di far vedere al mondo che sapevano lottare per i diritti umani. Ecco, ma noi, cioè voi, il governo Berlusconi, quando ha capito che la guerra era una guerra che era diventata assolutamente inevitabile per i francesi? L'ho capito quando Sarkozy convoca una domenica un vertice di Parigi, Berlusconi va dicendo dobbiamo resistere in tutte le maniere, torna dicendo era impossibile, già stasera partono a livello bilaterale i jet inglesi e francesi, io ho posto il veto alle basi militari se non ci sarà una missione sotto l'ombrello NATO. Quindi Berlusconi disse è stato impossibile frenare perché Sarkozy ha detto io faccio da solo, l'unico modo per salvare il salvabile era ricondurre in ambito NATO. Io ci lavorai nei due giorni successivi e ci riuscimmo con l'aiuto decisivo di Hillary Clinton. Ecco, ma in questo scenario l'Italia che rapporto aveva realmente con Gheddafi rispetto al tema che ci interessava direttamente, che è quello degli sbarchi sulle nostre coste? Gheddafi frenava i barconi quando gli conveniva. Erano quei giorni famosi in cui Gheddafi faceva sapere che se l'Italia avesse fatto questo e quello avrebbe mandato la famosa invasione, ma lo aveva fatto anche prima. Quando noi negoziavamo in tutta amicizia la famosa autostrada costiera e c'era un rallentamento da parte italiana, magicamente arrivavano 500 persone tutte in un colpo a Lampedusa e lui diceva senza vergogna che questo forse avrebbe svegliato i negoziatori, quindi giocava. Poi lo dico con grande chiarezza, a un certo punto noi tramite i nostri servizi ascoltammo una registrazione veramente importante che era stata captata, dove Gheddafi diceva ad uno dei suoi generali, che ancora esiste quindi non si può dire chi è, faremo Lampedusa rossa del sangue degli africani. Questa frase ci fece capire che aveva in mano un'arma talmente atomica che lo dovevamo fermare. Dunque una situazione di estrema pericolosità a questo punto, ma per fortuna i diplomatici italiani intanto erano stati evacuati in piena notte e due giorni dopo l'ambasciata italiana viene rasa al suolo. In estate la sorte di Gheddafi è segnata, in Libia le milizie tribali sono in mano a elementi dei fratelli musulmani che, come abbiamo sentito, hanno il supporto del Qatar. Ancora una mail a Hillary Clinton il 1 settembre del 2011. Il governo di transizione e l'esercito di liberazione della Libia dicono che nelle unità combattenti autonome, presenti soprattutto a Bengasi, sono presenti molti elementi della fratellanza musulmana che ricevono aiuto dall'Egitto. Ecco, Gheddafi a quel punto scatena tutta la potenza delle sue armi e compie bombardamenti terribili su Bengasi, segnando ancora di più la divisione in due della Libia, che poi è alla base della drammatica e quasi insolubile, come abbiamo visto ieri a Vienna, quasi insolubile situazione attuale. È proprio così? Nel momento in cui è insorta Bengasi, la reazione di Gheddafi fu una e immediata. Lui aveva un'aviazione da combattimento incomparabilmente più forte di qualunque altro paese della regione e rovesciò una pioggia di missili sulla città di Bengasi. Nel frattempo però Berlusconi cerca di evitare l'escalation del conflitto, prova a salvare la vita di Gheddafi. Berlusconi in realtà tratta anche con il governo provvisorio di Jebril e a fine agosto del 2011 sblocca 350 milioni di fondi che l'Italia aveva congelato per aiutare il governo di transizione e l'ENI a sua volta assicura forniture di energia con la promessa di un pagamento futuro. L'Italia, insomma, ha provato in quei mesi a evitare il collasso dello Stato libico con tutte le sue forze, sforzi concreti e anche ad alto rischio, come continua a raccontare Frattini a Mario. Chi era il nostro interlocutore in Libia durante la guerra? Il suo? Il mio era il governo provvisorio fatto da un presidente Abdel Jalil e da un primo ministro Jebril, che si erano stabiliti a Bengasi e a cui, grazie ai nostri servizi, in una missione rocambolesca, noi facemmo arrivare gli apparati ricetrasmittenti satellitari che nessun altro paese al mondo aveva fino a quel momento fatto arrivare, e io ricevetti la prima telefonata dal presidente ad interim Abdel Jalil, che mi disse: caro amico, grazie a lei io parlo con lei come primo fuori dalla Libia con il resto del mondo. Fu una missione dei servizi segreti italiani. Fu una missione dei servizi segreti italiani che arrivarono prima di ogni altro, e ci fu una missione che oggi possiamo raccontare assolutamente rocambolesca, guidata o con la presenza del capo di gabinetto del ministro La Russa, l'attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Graziano, e del mio capo di gabinetto, ambasciatore Terracciano, che certo non era uomo di guerra, che sbarcarono nottetempo su due gommoni protetti dagli incursori della Marina sotto il potenziale tiro delle armi di Gheddafi. Una missione rocambolesca in cui noi arrivammo primi tra tutti al mondo per portare un mezzo di comunicazione satellitare a quel governo. Gli alleati erano informati della nostra missione. Sono stati informati a tempo debito. Dopo. A tempo debito. A tempo debito, ecco, sembra un film. Invece è tutto vero. E intanto Gheddafi non si arrende, Tripoli cade, lui si asserraglia a Sirte, che era la sua città, ma la sua fine è sempre più vicina. L'Italia prova in tutti i modi a evitare che il colonnello venga ucciso. Ancora Frattini, che sempre racconta a Mario cosa sentiva Berlusconi rispetto al rischio che correva Gheddafi. Un po' se la sentiva, perché mi disse una volta: in quei paesi alla fine non muori da un'altra parte. E Gheddafi lo aveva detto a Berlusconi personalmente, quando lui lo aveva cercato prima che le cose esplodessero, e Gheddafi gli aveva detto: io sono certo dell'amicizia dell'Italia e della tua personale. Io sono un beduino del deserto, mai morirò fuori dalla mia terra. Io non ero favorevole all'immunità. Berlusconi mi disse che era un discorso da politico, da giurista e non da politico sulla scena internazionale, si doveva prendere in considerazione l'idea che Gheddafi sparisse protetto dall'immunità. Io mi dissi contrario e ritenni, però capii, che gli eventuali ospiti, ad esempio il Mali, lo avrebbero accolto escludendo categoricamente l'idea di darlo all'AIA. Ed è il 20 ottobre del 2011. Gheddafi viene catturato, ferito alla gamba, linciato a Sirte dai gruppi rivoluzionari. A Sirte è stato catturato il Rais. Mohamed Muammar Gheddafi dunque si nascondeva davvero nella sua città natale, l'ultimo rifugio, la città dove era nato 69 anni fa e da dove era partito per conquistare il potere. Ecco Mario, noi con le tue mail e l'intervista a Frattini abbiamo fatto una ricostruzione, certo sommaria, sì, però abbastanza precisa di quello che è capitato e di quello che sta dietro a quello che sta capitando oggi in Libia e che non si riesce a risolvere ancora in nessun modo efficace. C'è qualcosa in più da dire, Mario? Ma solo una cosa. Piano piano lo scenario reale di quella guerra si sta compiendo. È un lavoro tra la cronaca e la storia, in realtà, come abbiamo visto. E l'altra cosa che voglio aggiungere, voglio ringraziare Franco Frattini perché il suo aiuto è stato davvero prezioso, testimonianza di prima mano. Ecco, sì. Tu Pietrangelo, che idea hai di quella che è oggi la situazione? Oggi la situazione si è pericolosamente aggravata perché dai tempi in cui l'Italia segretamente con grande efficacia riuscì a scalzare Re Idris e piazzare Gheddafi al controllo dell'intera Libia, adesso c'è una grande novità. C'è la necessità di unire la Libia e di fare la guerra al califfato. E questo è difficile perché non si capisce chi sono gli alleati e chi sono i nemici, perché l'uomo forte lì è il generale Haftar, che era quello di Gheddafi. Che era quello di Gheddafi, che adesso sta dall'altra parte, che fa la guerra a Tripoli ed è sostenuto non solo dall'Egitto, non solo dagli Emirati, ma la Cirenaica si fa forte del sostegno subdolo della Francia. Certo. Ed è forse quel generale, questo non lo so, ma quel generale di cui non dice il nome Frattini, ma potrebbe anche essere lui che gioca questo ruolo di ambiguità, naturalmente non lo sappiamo. Tutto. Ecco, io vorrei chiudere con un documento che suona un po' profetico, visto i rapporti che l'Unione Europea ha con la Turchia in questo momento, soprattutto la Germania, e che è un passaggio del faccia a faccia che io ho fatto al colonnello Gheddafi nella sua tenda a Tripoli, e forse è interessante perché lui parla del rischio dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS se avete telefonate o SMS per noi dopo la pubblicità. Mix 24. Augusto da Trieste, buongiorno. Buongiorno, sono Minoli, buongiorno, buon lavoro. Grazie, mi dica. Dunque, io ho 77 anni, mi ricordo, sono andato in Libia la prima volta nel 70, appena Gheddafi si era instaurato, nel periodo poco dopo aveva fatto sgombrare un cimitero per farci un supermercato, un cimitero italiano. Sì. Ero a Tripoli. Però è rimasto il cimitero italiano a Tripoli. Prego? È rimasto il cimitero italiano a Tripoli, c'è ancora tuttora? No, uno non c'è più, è stato letteralmente. Va bene, e allora cosa ci racconta? No, di Tripoli mi ricordo, era una città molto italiana. Sì. In terra c'erano i tombini ancora scritto Comune di Tripoli in italiano. La chiesa, quando è stata. Il Duomo di Tripoli che era stato tolto per fare con le campane, ci avevano fatto un mercato dentro e con le campane ci avevano fatto dei monumenti ai soldati, oppure al deserto. Io mi sono trovato bene con la popolazione libica perché parlavano tutti, gli anziani parlavano tutti l'italiano. e la persona, il popolo era un popolo anche accogliente, niente di particolare, tant'è vero, se lei come giornalista sa che libici in Italia non ce n'è molti, nessuno ha lasciato la Libia, se non ora, ma in 40 anni non hanno fatto nessun caso eclatante i libici a lei. Scuso, e quindi allora la Libia è stato un errore far fuori Gheddafi in quella maniera, la Libia. Ah, ecco, va bene, va bene. Questo oramai l'ha riconosciuto anche Obama, che ha detto che è stato il suo più grave errore di politica estera dell'America. Grazie. Pietrangelo, eccomi. La canzone. Che facciamo? Cominciamo con la canzone? Arriva. Nice warm bed. You just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Allora non potendone più, non volendo abusare dell'ira, perché il Pelide e Achille oltretutto infiniti dedica addus, lutti agli Achei ma dedica a Briseide pensieri tutti di malinconia, i pendolari oggi cavavano dalle tasche, dagli zaini, le biglie, automobiline, le costruzioni, i giocattoli, insomma la metropolitana è diventata una grande giostra. Ha telefonato Lucignolo, ha voluto questo brano e lo dedica all'omino di burro con un messaggio: nessuno potrà giocare come gioco io. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. Mario, abbiamo ancora una telefonata. Giancarlo da Torino sulla Libia, credo. Buongiorno Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, ma Minore, io seguo sempre le sue trasmissioni, mi piace come giornalista, lei è veramente bravo. Vabbè, la ringrazio, siamo in tanti qua. No, lei proprio, mi piace perché è un modo di fare che è veramente incisivo. Bravo. Vabbè, mi dica. No, volevo semplicemente dire questo, che noi italiani, no, e non solo noi, ma in particolare noi, paghiamo il conto della irresponsabilità della Francia, in particolare di Sarkozy, che non c'era nessun motivo di uccidere Gheddafi. Gheddafi non era un angioletto, però teneva unito e il mondo era forse un po' il mondo, per intendo il Nord Africa, il Medio, era un po' più tranquillo. Adesso che l'hanno ammazzato, la Libia è ingovernabile e ce ne vorrà di tempo per riportarla all'ordine. E speriamo che non la trasformino nel califfato. Ecco, ho creduto anche quello, ma questi francesi maledetti, in particolare Sarkozy, dovrebbero essere portati davanti a un tribunale internazionale, perché questo qui è stato un gesto unilaterale, hanno bombardato un paese sovrano. Lo so, però... Non avevano fatto niente, ma loro, secondo me, Sarkozy voleva compiacere a quegli altri bombardori che sono gli Stati Uniti, perché se noi paghiamo questo conto adesso, lo dobbiamo anche a loro, perché loro hanno sconvolto tutto il Medio Oriente, dall'Iraq all'Afghanistan, alle sanzioni all'Iran. Insomma, il mondo va male perché Stati Uniti, in particolare loro e Francia e anche dietro la Gran Bretagna, continuano a sconvolgere il mondo, bombardano, occupano. Vabbè, è la storia del mondo. Adesso Obama ha detto che si è sbagliato in Libia, quindi speriamo che questa presa di consapevolezza. Posso dire una cosa? Sì, certo. Questo argomento qua adesso verrà fuori alla grande durante le elezioni presidenziali. Pare che Trump stia preparando proprio una serie di uscite su Benghazi, la campagna americana in Libia. Gli errori che ha fatto la Clinton anche. Sì, sì. Senti, intanto Mario, c'hai la tua bolla? Sì. Sono gli Apples selezionati dalla Guerrera stamattina, ma vabbè, ha preso il timone. E in fondo di Apple ci dobbiamo occupare, la casa della mela, perché Warren Buffett ha comprato azioni Apple per la modica cifra di $1 miliardo. E allora la cosa è molto interessante perché ovviamente parliamo del più grande investitore della storia di Wall Street, considerato il re Mida. Il titolo Apple ieri è schizzato a razzo, e d'altronde se tu metti mano al portafoglio per scucire un miliardo, due o tre ragionamenti si suppone che li abbia fatti. Quali sono? Beh, Apple ha 153 miliardi di casse. È un'azienda che ha un problema nel declino dell'hardware, e questo si è visto anche negli ultimi dati, ma con quel po' di cassa uno fa un sacco di cose. Certo, puoi arginare con nuovi prodotti, ricerca, la miniaturizzazione e altri device, così si chiamano. La realtà è che Apple ha da esplorare ancora il settore dei servizi, e soprattutto con quei soldi può fare acquisizioni. Non a caso ha investito un miliardo a sua volta nella Uber cinese, in Didi, si chiama Didi, certo. Ora non c'è niente di geniale se ci però pensiamo un attimo. D'altronde, dove si va? Dove c'è demografia, dove ci sono nati in Cina e dove c'è mercato. Quindi diciamo fantasia molto poca. La realtà è che secondo gli analisti il fatto che Buffett abbia comprato una quota così rilevante significa che in fondo scommette molto su questa strategia nuova. Vediamo, perché un pezzo della contemporaneità e della competizione nell'industria digitale, che in fondo è tutto l'industria ormai, è anche questo. Bene, Salamino. Editori, cercasi informazione. Allora, è stata una bella novità la 7 di Urbano Cairo, e al netto del birignao obbligato, perché la televisione per sua natura è de sinistra, La 7 ha rappresentato un interessante inciampo, e io saccheggio dal tuo archivio, Giovanni. C'erano 225 milioni di costi e ricavi per 120 milioni, quindi io ho voluto tenere tutti, quindi 420 dipendenti, che costavano 38 milioni, e poi sono intervenuto sugli altri 185 milioni tagliandoli per la metà. Tagliando, lui ha risanato. Tagliando senza licenziare. Lui ha messo in piedi la 7, che è stata una bella novità. E siccome Editore Cercasi e Cercasi Informazione, possibilmente scorretta, insomma, sulla carta stampata qualche novità arriva. Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino. Ed è sempre Urbano Cairo a fare una precisa parte in commedia nella tragedia dell'informazione. Si offre la salvezza del Corriere della Sera, propone un progetto per un quotidiano indipendente, lo schiera per il no alla riforma, immaginando che alla presiedere nuovo Corriere torni Ferruccio De Bortoli, e subito arriva la contromossa filo governativa. Tronchetti, Della Valle, Nagel e Cimbri si oppongono all'operazione Cairo, a sua volta sostenuto appunto da Bazzoli, e con De Bortoli nel ruolo di presidente. Editore cercasi informazione, finora è andata così, e cioè che i banchieri dettano e i giornali scrivono. Palazzo Chigi, dove lì c'è il Matteo Renzi, è ben lieto di avere nell'attuale Corriere, oltretutto grazie a una gentile firma assai benevola verso Renzi, che ha fatto di via Solferino una sorta di TG4, insomma il governo fa il tifo per il vecchio salotto. E Della Valle, che pure si era schierato, Giovanni, devo per forza rubare ancora dall'archivio delle tue interviste, Della Valle, che pure si era schierato nella valle che diceva così. Però oggi l'obiettivo è la comunicazione è importante, tentiamo di tenerla libera e questo è quello che proveremo a fare. Questa azienda ha bisogno di cambiare in fretta e ho l'impressione che anche... Ma cambiare in fretta? Che significa? Avere un editore puro? Cambiare in fretta? Beh, intanto di editori puro nel Corriere ce n'è uno che si chiama Cairo. Ah, vabbè, e Cairo. Io sarei dell'avviso, se lui se la sente, di dargli la delega nel gestire l'azienda. Senta. E non capisco perché gli altri non lo facciano. Insomma, quello se la sente, se l'è sentita. Si è fatto sentire. Ha fatto sentire. Una proposta. Ha fatto quello che voleva fare Della Valle e Della Valle che fece? Si arrifardò, per dirlo in siciliano? Giovanni, tu non lo so, non lo so. Secondo me non siamo alla fine della storia. No. La ruota girerà ancora. È divertente. E i dadi non sono ancora finiti. È molto interessante. Sì. Adesso però ascoltiamo una nuova storia di coraggio, di cambiamento, che ci fa vedere il lato meno raccontato del paese, che come sempre arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato un altro dei nostri agenti del cambiamento. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Rondine è un borgo vicino Arezzo che negli anni 50 stava per essere abbandonato. Invece, grazie al progetto Rondine, cittadella della pace, è diventato luogo di incontro e confronto per decine di ragazze e di ragazzi provenienti da paesi in conflitto tra loro. Ecco, Franco Vaccari, presidente del progetto, cos'è concretamente Rondine, cittadella della pace? Sì, è un'esperienza che vive da circa 18 anni e che mette insieme quelli che la storia ha condannato a essere nemici. Quindi, per capirci, sono giovani israeliani e palestinesi, serbi, bosniaci, indiani, pakistani, giovani che vengono dai luoghi dove la guerra è diventata un fenomeno endemico, dura da decine di anni e blocca intere generazioni di giovani, togliendo a loro il futuro, la speranza. Questi giovani noi li selezioniamo, vengono qui e vivono per 2 anni insieme. Un'esperienza di forte dialogo, di avvicinamento all'altro ritenuto il nemico e della scoperta graduale che l'altro è una persona come te, è una persona che ha sofferenza, sogni, desideri come te e che forse può diventare, invece che un nemico da distruggere, un partner per ridare spazio al futuro che si desidera. Ecco. Quindi Rondine è questo studentato internazionale che ospita questi giovani che vorremmo far diventare i futuri leader dei loro paesi. Questa è la nostra ambizione. Senta, ma in base a quali criteri li selezionate? Ma noi ogni anno inviamo un bando, abbiamo rapporti con circa 25 paesi nel mondo segnati da guerre o recentemente concluse o in atto, e questo bando viene veicolato tramite una rete molto diffusa di partner nostri istituzionali e anche le stesse nostre ambasciate, gli istituti italiani di cultura all'estero, una grossa rete di università soprattutto dove andiamo a selezionare gli studenti. Ormai, essendo il progetto avanti da 18 anni, anche i nostri ex studenti ritornati nei loro paesi ci aiutano per selezionare le persone che fanno al caso nostro. Ecco, con quali fondi si sostiene il progetto? Rondine ha un sostegno essenzialmente privato. Vive di denaro pubblico di alcune istituzioni italiane, locali o nazionali per il 5% e il resto viene essenzialmente da fondazioni anche che hanno sedi in paesi fuori dall'Italia. Ho sentito che c'è un nuovo progetto attivo da quest'anno che vi sta molto a cuore. Ci vuole raccontare qual è? Beh, dopo 18 anni abbiamo visto che la cosa sembra funzionare. E allora abbiamo voluto dare una ricaduta sociale forte ai giovani italiani, sempre con la stessa logica, perché Rondine è impegnata fortemente sul tema del conflitto e della decostruzione del nemico. Noi riteniamo che il nemico sia veramente un tragico inganno e bisogna smontare questa malerba che rinasce continuamente nelle persone. Però abbiamo inventato un quarto anno di liceo, cioè un quarto anno di liceo classico, scientifico e scienze umane, una classe con giovani selezionati da ogni regione italiana che fanno il quarto anno a Rondine. vivono nella cittadella della pace, fanno i loro studi normali e in più tutta un'esperienza organizzata che è anche di gomito a gomito con questi giovani che vengono da tutte le parti del mondo, questo però chiaramente con una ricaduta sociale, perché noi scegliamo dei giovani 17enni che si impegnano poi a fare un loro progetto di ricaduta sociale nella loro città, con la loro scuola, con le loro compagne. Grazie Franco Vaccari. Per altre informazioni sul progetto Rondine, Cittadella della Pace, sulle altre realtà di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. Canzoniere. Un dì io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Erano circa le 9:20 di questa mattina. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini 6 per raggiungere la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante da casa. Mentre si accingeva a infilare le chiavi nella serratura dell'auto, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. L'uomo, sceso velocemente dall'auto, ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. Il 17 maggio del 72 due killer uccidono Luigi Calabresi, vice capo dell'ufficio politico della Questura di Milano, 35 anni, 2 figli e 1 in arrivo. Minacce, intimidazione, una spietata campagna mediatica hanno preceduto la morte del commissario Calabresi, da alcuni ritenuti colpevole della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Ottobre 75, una sentenza assolutoria scagiona la polizia e il commissario, ma solo la confessione di un pentito nell'88 identifica le responsabilità materiali e morali dell'esecuzione di Calabresi. La prima vittima, Luigi Calabresi, una barbara esecuzione, processi, controversi e sentenze che fanno ancora discutere qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Per il canzoniere Romolo da Salerno, Romolo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Allora, in morte del fratello Giovanni di Ugo Fosco. Bravissimo, giusto. Bravissimo, giusto, sì. Fa tutto da solo, bravo. Complimenti per tutti e tre, siete fantastici. Grazie, molto gentile. Che fa di bello a Salerno lei? Io sono un pensionato dell'Arma che adesso mi dedico all'artigianato. Ah, bene, l'artigianato però è importante. Grazie. Lavoro in legno. Prego. Grazie. Arrivederci. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è ancora una bomba? Sì, no, no, anzi no, sì, no. Non c'è tempo, no. Peccato, no, perché volevo dire a Dario da Frosinone che erano 143 tonnellate d'oro e argento in Libia, valore stimato 7 miliardi di dollari, in una citato in una mail che viene mandata a Hillary Clinton l'aprile 2000. Ok, intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. FASEB, febbraio 2016. È possibile ereditare l'attitudine all'esercizio fisico. La genetica è una delle componenti fondamentali della nostra salute perché determina un mucchio di cose. Intanto credo di averlo già detto che sì, la genetica è importante, ma è importante, si ritiene, per esempio, per la lunghezza della vita, per il 25%, il 75%, cioè la grande parte, te la devi, come si dice, guadagnare. E non solo, se hai uno stile di vita sano e saggio, i tuoi geni lavorano meglio e si permettono di dare delle performance migliori. Se hai uno stile di vita invece dissoluti e che non funzionano, anche i tuoi geni funzionano peggio e ti codificano proteine sbagliate o ti fanno facilitare l'insorgenza di una malattia. Allora è molto interessante andare a vedere queste ultime cose che vi ho detto, è la cosiddetta epigenetica, cioè l'influenza dell'ambiente sul nostro patrimonio genetico. Sono andati a vedere in dei ratti cosa succedeva a quei ratti che durante la gravidanza venivano facilitati, venivano spinti, venivano favoreggiati a fare esercizio fisico. Cosa succedeva ai loro figli? Se i loro figli erano diversi dai figli di ratti che invece durante la gravidanza se ne stavano sedentari, come si dice. Beh, è impressionante perché i figli di ratti che avevano fatto esercizio durante la gravidanza erano ratti che significativamente erano molto più capaci e molto più pronti a fare esercizio. Quindi in brevissimo tempo, e questa l'epigenetica, viene modificato il patrimonio genetico anche dei figli che si spingono a correre di più. Questo ci fa capire come veramente l'ambiente gioca sempre una parte fondamentale, perché addirittura quello che facciamo durante la gravidanza può condizionare alcune attività di quello che sarà la vita futura dei nati. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto? Oggi una canzone per chi perde il sentiero nella dolcissima fatica. Abbracciala, abbracciali, abbracciati, di Lucio Battisti nella versione di Cosmo. Cosa ti dicevo mai? A che punto ero? Ho quasi l'impressione che con te perdo il sentiero. Forse la psicologia